Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, eccoci qua in diretta radiofonica. Il brano che avete ascoltato è la sigla di apertura di questo programma che è Zardins Magnetics e va in onda ogni giovedì dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Che altro dire? Vabbè, ci sono i nostri contatti se volete scriverci, ma come consuetudine lo facciamo alla fine della trasmissione. E quindi ora invece andiamo all'ascolto, alla presentazione di un vinile, di un disco, anzi è una nuova uscita, una band che molto conosciuta, l'abbiamo passata più volte qui in questo programma, è un disco che è stato registrato alcuni mesi fa, ma l'uscita è proprio recente, di credo al massimo 2 settimane. Loro sono in Contrasto, direttamente dalla Romagna, questo disco 12 pollici si chiama Solo per te, e forse nello slang tecnico dei discografi eccetera eccetera, forse si chiama One Side, ovvero che è registrato solamente su un lato e sull'altro c'è una stampa grafica, e vabbè, comunque quello è tutto, insomma, particolari tecnici che forse non ve ne può fregare di meno. Contrasto Solo per te. Thank you. Buonasera e un saluto a tutte e tutti voi che siete in ascolto per questa puntata di giovedì 6 luglio 2023 di Zardins Magnetics. Come è già stato detto, una trasmissione che va in onda tutti i giovedì e in diretta, autogestita, in diretta in FM su Radio Onde Furlane che ci ospita e oltre che in streaming anche su, diciamo, reperibile diciamo in podcast riascoltabile. E andiamo a presentare questa, mentre sono appunto già le 8:15, presentare gli argomenti che tratteremo questa settimana, questa puntata. E come già preannunciato, ci sarà parleremo dell'iniziativa che si svolgerà a Gradisca di Zonzo davanti al CPR sabato 8 luglio, dopodomani, a partire dalle 18:30. Sarà presentato a cura di chi l'ha curato, diciamo, dai compagni che l'hanno curato, un opuscolo che si intitola "I CPR si chiudono con il fuoco, narrazione delle rivolte che hanno portato alla chiusura del CPR di Torino, con le testimonianze dei reclusi". Di questo parleremo dettagliatamente nel secondo blocco, diciamo, della puntata. Adesso invece, subito, fra un po', un altro argomento collegato a questo dei CPR, della situazione dei migranti, è una sbobinatura che abbiamo fatto di una intervista a una ricercatrice antropologa che ha curato un saggio approfondito, si intitola "Asylum for Sale, Profit and Protest in the Migration Industry". E così, è una sbobinatura che è stata fatta dalla trasmissione "Macerie su Macerie" di Radio Blackout di Torino, e che ringraziamo, insomma, ovviamente che abbiamo approfittato di questa intervista, ma da lì appunto cercheremo di svolgere i temi, diciamo, più importanti, i capisaldi di quella lunga intervista. E niente, adesso lasciamo un po' ancora di musica e poi ritorniamo in voce. We'll be right back. Eccoci di nuovo qui in voce per questa puntata di Zardins Magnetics. Prima di partire con i CPR e con i rifugiati eccetera eccetera, un importante aggiornamento di oggi pomeriggio: ADN Kronos delle 16:36, caso Cospito, rivelazioni di segreto d'ufficio, imputazione coatta per Del Mastro. Ecco, allora, il simpatico Andrea Del Mastro, sottosegretario della giustizia, alla giustizia del governo Meloni, che era indagato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, è stato, diciamo, la procura aveva chiesto l'archiviazione, invece il giudice indagini preliminari lo ha rinviato a giudizio perché secondo il giudice sussiste l'elemento sia oggettivo sia quello soggettivo del reato. E lui dichiara, che prendo atto della scelta del GIP di Roma, che contrariamente alla procura ha ritenuto necessario un approfondimento, e commenta: avrò modo di insistere per il non luogo a procedere per l'insussistenza dell'elemento oggettivo. Sono fiducioso che la vicenda si concluderà positivamente. Convinto che alcun segreto sia stato violato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, conclude l'esponente di Fratelli d'Italia. Ecco, e dopodiché le vittime, quelli che piangono sempre il morto, che sono questi qui, che sono al governo, dicono addirittura oggi che la magistratura vuole fare opposizione, eccetera, eccetera. Noi queste cose qua ci disinteressiamo, solo ci rallegriamo per questa rogna che dovrà grattarsi, speriamo, il camerata. E quindi adesso 10 secondi di musica e poi cambiamo argomento. Eccoci allora di nuovo qui. Dicevamo quindi, Siobhan McGeerk è una ricercatrice antropologa, credo insomma anglosassone, irlandese, non lo so, questo non ho avuto tempo di verificarlo. Lavora, diciamo, all'università negli Stati Uniti, sia negli Stati Uniti che in Europa, adesso non dilunghiamoci. Allora, questa lunga intervista realizzata da Macerie su Macerie mesi fa, dicono, fuori dalle retoriche facilone sulla libertà o meno di movimento, descrive il libro, descrive la storia della costruzione delle frontiere, della concessione di documenti e dei sistemi di protezione internazionale come politiche di risposta a esigenze del mondo capitalizzato che organizza l'oppressione attraverso la riproduzione di modelli gestionali per il profitto. Al di là di questa frase, io partirei da una famosa dichiarazione di Margaret Thatcher, che in un'intervista, non ricordo più che giornale, nel 1988, quasi dunque alla fine della sua era, Margaret Thatcher era primo ministro durante gli anni 80, nel Regno Unito, diciamo dalla fine degli anni 70 alla fine degli anni 80, quindi ribaltò completamente quella che era la, cioè rispetto a quello che è seguito poi, non è che i suoi interventi erano anche, diciamo, con i guanti rispetto dopo la devastazione che è seguita dopo, nel senso che in realtà il sistema sanitario, quello che era insomma il welfare, non lo ha toccato, non lo ha polverizzato, ecco. Però è rimasta nella storia perché è stato il primo, diciamo, l'avanguardia, diciamo, di quello che è stata l'hanno chiamato il 68 dei padroni, no? E Berlusconi l'hanno chiamato il 68 dei padroni, cioè la rivoluzione al rovescio di questi così edonisti, che poi in realtà lei adesso non facciamo una digressione troppo lunga, però proveniva da una famiglia metodista in realtà, poi sposandosi è passata alla anglicana. La società in quanto tale non esiste se non come concetto. La società è fatta di persone, sono le persone che hanno doveri, convenzioni e risolutezza, sono le persone che fanno le cose. Lasciare le cose alla società significa scappare dalle vere decisioni, dalle responsabilità e dall'azione efficace. Margaret Thatcher, 1988. Cioè, tradotto, diciamo, facendo la parafrasi di questa famosa dichiarazione, vuol dire che il soggetto neoliberale, individualista, imprenditoriale di se stesso si risolleva da solo. Cioè, è quel soggetto sempre per antonomasia è quel esempio paradigmatico di meritocrazia. Lui è quello che si merita sempre quello che fa, tutto quello che fa se lo è meritato, perché appunto è un soggetto eccezionale ed è in grado da solo di risolvere tutti superare gli ostacoli e arrivare dov'è e avere successo, eccetera eccetera. Questi erano sono i valori del neoliberismo. Tutto questo che la McGeer, che chiama archetipi, permea completamente anche tutto il meccanismo, tutta la struttura, tutto l'apparato del discorso sulle migrazioni. Allora, lei, dicevano appunto i compagni di Macerie su Macerie, ricostruisce questo discorso del rifugiato. Il rifugiato compare, diciamo, nella storia contemporanea dopo il 45, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e chi viene concesso l'asilo sono principalmente gli ebrei perseguitati dal nazismo nelle varie parti dell'Europa continentale, a cui viene concesso asilo appunto principalmente nel mondo anglosassone, anche prima della guerra, insomma, adesso. E poi progressivamente questo concetto slitta anche sul discorso coloniale, cioè nel senso, in seguito alle guerre coloniali della prima metà del Novecento, della fine dell'Ottocento, prima metà del Novecento, che consistono sostanzialmente in enormi sfollamenti da parte delle potenze europee coloniali per consolidare il loro dominio, quindi da un territorio all'altro di volta in volta si spostano delle popolazioni e queste vengono chiamate rifugiati. E quindi rifugiati vuol dire che non sono più protetti da quella determinata potenza europea che domina su quel territorio. Dopo, appunto, parallelamente, diciamo, a queste due situazioni, c'è anche la situazione più, diciamo, successiva durante la Guerra Fredda, sia nel mondo occidentale. I rifugiati chi erano? Erano quelli che scappavano perseguitati dai regimi cosiddetti del socialismo reale, del comunismo reale, ovvero Unione Sovietica e Cina e paesi satelliti, e venivano appunto stabilite delle convenzioni internazionali per accogliere questi dissidenti, venivano chiamati, ed il profilo di questi dissidenti erano persone, beh, ovviamente erano persone bianche di un certo livello di acculturazione, e avevano appunto portatrici di un'opinione politica che contava, in quanto erano dissidenti, quindi erano, diciamo, in qualche maniera filo occidentali, e per questo gli veniva concesso l'asilo politico. In Italia adesso mi viene in mente un periodo, era pieno di cioè ce n'erano tanti sì, di questi, durante, specialmente quando c'era Wojtyla, sempre questi, siamo arrivati agli anni 80, quando c'era Papa Wojtyla, c'erano tantissimi polacchi, ad esempio, cui veniva concesso l'asilo politico, perseguitati, no? dal regime di Jaruzelski. Quando arriviamo agli anni 90 e si stabilisce un nuovo ordine mondiale, appunto con il crollo di questi stati di burocrazie delle autoritarie, e da quel punto in poi vengono come compaiono nuovi dispositivi come le ONG, l'UNHCR, eccetera eccetera. Sono tutte strutture, apparati, appunto, che prima non esistevano, le organizzazioni non governative, a cui viene demandata la missione di salvare i paesi poveri, così definiti, mentre si tratta poi quando si va a vedere chi sono questi cosiddetti, appunto, rifugiati umanitari, si tratta sempre di persone che scappano da carestie, guerre, disgrazie varie, effetti di conflitti coloniali o postcoloniali, no? Non è che sono disgrazie cadute dal cielo, però si tratta sempre di retoriche che vengono messe in piedi, di sistemi discorsivi che vengono messi in piedi per incorniciare, per appunto far emergere queste nuove soggettività. Nuovo, ultimo, diciamo penultimo, svolta è l'11 settembre 2001 con gli attacchi alle Twin Tower e una nuova era di islamofobia che infiltra tutte queste pratiche che c'erano già. In particolare la McGill, che fa l'esempio, nel Regno Unito ci sono ancora tutta una serie di programmi di sorveglianza per gli scolari di famiglie di origine musulmana, in quanto che appunto gli apparati di sicurezza, i servizi di controspionaggio interni, insomma i servizi segreti vari, devono stare sempre allerta, e quindi avevano realizzato, insomma, dei veri e propri programmi di sorveglianza per questi ragazzi, questi bambini, appunto figli di magari di famiglie che erano già lì in Gran Bretagna da dei decenni e facevano la loro attività, insomma la loro vita, avevano avviato, eccetera eccetera, ma comunque venivano tenuti sotto stretta sorveglianza solo per questa loro, appunto, possibile virata in radicalizzazione, quindi appunto possibili attacchi nuovi al potere, insomma allo stato vigente. E ecco, si estende questo, sorge questo spettro a un certo punto del terrorista, no? È una politica di contenimento e di esclusione, simultaneamente lo spettro del terrorista sempre appunto possibile. A questo punto a tutti, specialmente appunto maschi, neri o meticci, vengono associati a una minaccia per la sicurezza dello Stato. Tutto questo discorso poi va addirittura a espandersi, perché da lì in poi partono, diciamo, come dei frame di odio, cioè sono delle altre modalità. Come le ho definite prima, insomma, delle entità, diciamo, discorsive, questi frame di odio che partono contro i migranti, sempre accusati di varie responsabilità. Lasciamo ancora un po' di musica, poi torniamo in voce. Bene, e mentre appunto stavamo parlando della figura del rifugiato, però io volevo cambiare leggermente discorso, no, cioè volevo solo fare una digressione, perché c'ho un articolo, insomma, del 27 giugno, quindi la scorsa settimana, a Trieste sono scesi in protesta alcune decine di richiedenti asilo che risiedono in città, appunto per protestare contro l'assenza, affiancati dalle appunto ONG, adesso meglio, realtà del terzo settore che si occupano di loro, comunque per protestare contro l'assenza di spazio nel sistema di accoglienza, sono abbandonati a se stessi, per loro non c'è spazio, dice Schiavone, che è referente dell'ICS, eccetera eccetera. La risposta dell'assessore della giunta Fedriga è: auspico denunce, le solite associazioni la smettano di fare politica sulla pelle degli immigrati. Lui dice, cioè mi interessava l'intervento di questo assessore, che dice: si tratta di una manifestazione non autorizzata, l'auspicio è che i partecipanti vadano tutti deferiti all'autorità giudiziaria, gli italiani che vi hanno preso parte dovranno pagare. Per gli immigrati si spera che questo comportamento venga tenuto in debita considerazione per la domanda di asilo. Il vogliamo di chi ha attraversato illegalmente diversi confini pagando organizzazioni criminali è assolutamente inaccettabile. Siamo noi a volere che le regole vengano rispettate. Le solite associazioni smettano di fare politica sulla pelle degli immigrati, noi ci impegniamo a fare accoglienza, quella vera, di integrazione per gli stranieri che arrivano in regione attraverso i canali legali. Allora, non commento queste cose, che dichiarazioni, però voglio dire che quando appunto sorge questa figura del richiedente asilo o del rifugiato, è più o meno intorno al 2015, con la crisi della, in Siria, appunto il crollo della, dello Stato siriano, quindi l'ondata di appunto di sfollati da, che si espande diciamo in Turchia, poi progressivamente nei Balcani, quindi la famosa route, insomma la rotta balcanica che ci interessa direttamente, che appunto è qualche volta così un po' in secondo piano rispetto, anche un po' meno appariscente degli approdi per mare, ma comunque dal 2015 in poi si stabilisce questa netta divisione tra migranti economici e richiedenti asilo. Queste qua sono altre due invenzioni, cioè altri due personaggi di queste retoriche, di queste appunto di queste realtà discorsive, di queste retoriche, già detto. Sono due personaggi perché esattamente il migrante economico viene contrapposto al rifugiato politico. Allora, o uno è, si trova in, sul territorio, chiamiamolo, dell'Unione Europea perché è perseguitato seriamente, cioè eccezionalmente vulnerabile ed eccezionalmente meritevole, quindi di avere di ottenere l'asilo, quindi ecco che deve avere un profilo altissimo, deve avere, secondo per virgolette altissimo, deve essere integrato perché è obbediente, perché appunto è perseguitato dai regimi che sono i nemici militari, cioè nemici nel senso sono gli avversari negli scontri interimperialisti, intercapitalisti dei vari stati, sono quindi contrapposti agli interessi dell'imperialismo italiano, che ne parliamo neanche, appunto, non se ne parla mai, comunque esiste, e quindi sono vanno collocati appunto nella categoria rifugiato, altrimenti non sono nient'altro che migranti economici. Cioè cosa significa? Sono qui perché cercano un guadagno economico, è il sottotesto, no? I migranti non si spostano perché non hanno scelta, perché sono non hanno nessun modo di reperire, cioè quello che gli serve per andare avanti, perché fuggono da guerre da appunto provocate da chi domina, eccetera eccetera, ma perché sono alzati di mattina, hanno detto andiamo a cercare fortuna, andiamo a cercare un guadagno economico, che ce frega eccetera. La faccio breve, insomma, se ascoltate l'intervista alla ricercatrice farà anche degli esempi a questo vero e proprio scrutinio che viene fatto all'individuo che chiede appunto asilo, e quale specifiche persecuzioni hanno subito. Poi c'è appunto il capitolo perseguitati diciamo per motivi di orientamento sessuale, dove si passa dritto, insomma si asfalta il discorso della realtà reale, appunto, di cosa vuol dire avere determinati orientamenti sessuali in un certo contesto, e si applica invece lo stereotipo, no, del non so, del gay maschio, perché si tratta di maschi occidentale bianco, si applica quello stereotipo lì a appunto individui che vengono da altre, cioè per sopravvivere hanno applicato tutt'altra serie di strumenti, e quindi appunto tutta questa serie di accertamenti, scrutini, e non sono altro che, cioè non è che sono delle, voglio dire, non è che vengono condotte perché sono accurate, quindi arrivano a un risultato giusto, come posso dire, accertato, perfetto, no, perché facendo questa serie di assillante, di verifiche, di moralismi continui, di dire noi ci impegniamo a fare l'accoglienza quella vera che per gli stranieri che arrivano in regione attraverso i canali legali, cosa si fa? Si crea un contesto ostile per fare in modo che l'immigrato se ne vada coi suoi piedi. Non serve, andare lì con lo sfollagente, con il manganello, eccetera, basta insomma riempirgli, insomma, caricarli di tutte queste scartoffie, di questi, colloqui, di questi impedimenti burocratici, quindi loro alla fine gettano la spugna e sì, e cercano di saltafur, si dice per in friulano, saltafur da queste situazioni, no? E, sì, di trovare una via di uscita, ecco. Bene, io credo che ho parlato sufficienza su questo, su questa cosa qua. Metteremo chiaramente il riferimento nel blog, nel nostro, appunto, questa puntata, per andare a approfondire tutti questi argomenti di cui abbiamo parlato. Bene, volevo ricordare che adesso stiamo ascoltando in sottofondo, ma anche prima, durante l'intervento, ascoltavamo questa band al femminile della zona di Milano, loro erano le Agatha ed è un album uscito nel 2011. Teniamo così proprio alla fine questa band della zona di Milano, le Agatha, album uscito nel 2011, e passiamo invece ora all'ascolto di una band di Bologna un loro disco uscito nel 2016, loro sono gli Stasis. Forces will be coming home as soon as their work is done. Our nation enters this conflict reluctantly, yet our purpose is sure. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. We will meet that threat now with our Army, Air Force, Navy, Coast Guard, and Marines, so that we do not have to meet it later with armies of firefighters and police and doctors on the streets of our cities. Now that conflict has come, the only way to limit its duration is to apply decisive force. And I assure you, this will not be a campaign of half measures, and we will accept no outcome but victory. My fellow citizens, the dangers to our country and the world will be overcome. We will pass through this time of peril and carry on the work of peace. We will defend our freedom. We will bring freedom to others. And we will prevail. May God bless our country and all who defend her. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, come ha detto chi mi ha preceduta, parliamo dell'opuscolo "I CPR si chiudono con il fuoco", opuscolo redatto, curato dall'Assemblea No CPR di Torino, che verrà appunto presentato domani a Trieste in Campo San Giacomo, domani sera, però anche in maniera molto incisiva, secondo me è importante partecipare a questa iniziativa, proprio davanti al CPR di Gradisca di Sonzo sabato pomeriggio, dalle 18:30 in poi ci sarà appunto la presentazione di questo opuscolo e contestualmente ovviamente un presidio solidale con i reclusi. Allora, l'opuscolo è molto ricco e parla molto bene, in maniera molto dettagliata, del CPR di Corso Brunelleschi di Torino, appunto, che è stato chiuso grazie alle rivolte precise, insomma, dei detenuti. Appunto, è stato chiuso nel febbraio di quest'anno, e parla di un po' di tutto quello che è successo, insomma, attraverso anche le testimonianze dei reclusi, che non sono è importante perché le testimonianze non sono delle narrazioni generiche, no? Come magari a volte si indugia, diciamo, sulle narrazioni e poi finisce lì, cioè ci si limita, diciamo, a provare empatia verso la sofferenza delle persone recluse in questi posti. Invece il taglio che hanno dato i compagni di Torino è interessante perché sono tutte testimonianze di rottura, diciamo, cioè testimonianze di consapevolezza e di rottura, quindi non si limitano a raccontare, poi del resto è così, e insomma le persone recluse solitamente hanno questa recluse che si ribellano a questa situazione, hanno questa capacità anche di colpire nel segno, appunto sono testimonianze di rottura. Attraverso queste testimonianze, ma non solo, i compagni ci raccontano un po' tutto quello che è successo a Torino e poi però fanno anche delle riflessioni più generali, diciamo. E io non parlerò quindi della cronaca della rivolta perché magari sarà interessante sentire sabato stesso, appunto, questa narrazione, ma mi concentro su questa parte che è titolata Spunti sulla guerra ai migranti e business delle frontiere, che è un po' in collegamento, diciamo, è come un filo rosso che collega l'interessante intervista alla McGeer, appunto, sbobinata dai compagni di Macerie su Macerie. Allora, ci dicono i compagni di Torino, dell'Assemblea No CPR di Torino: ovviamente la tortura a cui vengono sottoposti i reclusi del CPR non può che essere letta all'interno di una cornice di critica al capitalismo di oggi, in cui la macchina di guerra ai flussi migratori svolge un ruolo fondamentale ed in cui la detenzione amministrativa si pone come uno degli ultimi tasselli fondamentali nella messa a valore dei corpi attraverso le linee di oppressione di classe e razza. Questa macchina razzista e colonialista si inserisce a pieno titolo, assieme a molti elementi che compongono questa società, nella governamentalità neoliberista. La gestione dei flussi assume anche la forma di business dal ruolo centrale negli assetti politici ed economici internazionali. Esso da una parte permette ai grandi attori mondiali quali Europa, Stati Uniti e Cina di mettere in campo il proprio controllo indiretto, soprattutto nel continente africano e in America Latina, per la creazione di poli egemonici fornendosi di nuovi dispositivi repressivi, sorveglianti e di guerra. Dall'altra parte rende possibile la finanziarizzazione dei corpi delle persone. È il corpo stesso che diventa una merce produttiva. Sul lato dello sviluppo di tecnologie di sorveglianza, di alleanze strategiche, quindi di creazione di sfere di influenza negli assetti mondiali, è importante menzionare i programmi messi in campo negli ultimi tempi proprio da Europa, Stati Uniti e Cina. Allora, nel caso dell'Europa si tratta di programmi per la formazione di corpi militari specializzati avviati attraverso CEPOL, che è l'Accademia Europea di Polizia, in Medio Oriente e Nord Africa, con l'obiettivo di implementare anche la cybersicurezza applicabile primariamente sulle frontiere. Gli Stati Uniti hanno attivato nel continente africano Security Force Assistance, un programma di addestramento e consulenza per i reparti militari, le forze di polizia e per le strutture di intelligence. E poi hanno anche creato International Military Education and Training, la cui funzione è simile a quello sopracitato, ma con un focus specifico sull'addestramento attivo e l'integrazione di tecnologie militari, sull'interoperabilità dei sistemi di munizionamento e i protocolli di informazione dei sistemi informatici. E poi c'è anche l'ILEA, International Love Enforcement Academy, che è paragonabile, diciamo, a quelli che sono i programmi europei che abbiamo nominato prima e che è già attivo in America Latina nella guerra alla droga. E poi arriviamo alla Cina, che con il Global Security Initiative si sta orientando verso la creazione di una piattaforma internazionale per contrastare terrorismo, lavorare su cybersicurezza, biosicurezza e tecnologie emergenti. Anche in questo caso, anche nel caso della Cina, l'applicazione vede contingenti diramazioni in Africa e America Latina, puntando alla formazione di 5.000 membri delle forze di sicurezza nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, oltre che all'integrazione di fenomeni economici, tecnocoloniali e di infrastrutture digitali. Allora, ognuno di questi programmi, sia quelli europei che quelli statunitensi che quelli cinesi, per prendere ad esempio queste tre, diciamo, grandi potenze, ognuno di questi programmi punta in modo evidente a intervenire nello scacchiere globale, plasmando le strutture geopolitiche attraverso la costruzione di dipendenza militare e tecnologica. L'attrazione verso sfere di influenza politico-economica avviene così a costi enormemente ridotti rispetto al dispiegamento diretto del proprio contingente militare. Tale approccio rivela quanto l'esternalizzazione delle politiche di giustizia ed affari interni, quindi della difesa delle frontiere, nonché la formazione repressiva fornita a paesi terzi come forma di spinta verso il proprio polo geopolitico e geotecnologico, sia ormai elemento fondante delle dinamiche colonialiste del capitalismo contemporaneo. Sul lato invece della monetizzazione dei corpi in movimento, sembra importante menzionare che spesso il discorso che viene portato sul campo è quello della marginalità, dell'invisibilizzazione o addirittura l'inutilità alla quale sono relegate le persone cosiddette clandestine. In realtà, per quanto sia valido il discorso su un piano sociale, a livello politico ed economico, le persone che entrano all'interno di questa macchina, perché decidono per scelta o per necessità di vivere in un luogo diverso da quello d'origine, non sono affatto inutili. Nel sistema neoliberista, ogni piccola o grande scheggia della cosiddetta eccedenza umana può diventare una merce di guadagno, ed è esattamente quello che succede ai vari livelli di questo monumentale e differenziato apparato. Se guardiamo ai centri di permanenza per il rimpatrio, che sono uno degli ultimi livelli dal quale passano le persone che migrano, i corpi reclusi sono fonte di profitto per le aziende della detenzione, che lucrano sulle quantità di detenuti che possono stipare in stanze sovraffollate, mentre spendono il meno possibile per il mantenimento in vita di quei corpi che piuttosto riempiono di psicofarmaci, al fine di sedare le loro inevitabili spinte di ribellione dinanzi all'ingiustizia insita nella privazione della libertà. Allo stesso tempo, le persone espulse sono una merce di scambio che validano gli accordi bilaterali tra stati. Insomma, un business tout court. E allora, questa era appunto l'analisi dei compagni di Torino, che trovate all'interno dell'opuscolo I CPR si chiudono col fuoco, che è interessante e secondo me è molto, molto precisa, parlando di questo discorso del business to cure e anche di questo discorso degli accordi bilaterali tra gli stati. E, leggendo la rivista Altra Economia, il numero di aprile, dove c'è appunto questa indagine sull'abuso della somministrazione di psicofarmaci all'interno del CPR da parte degli enti gestori, e così sfogliando la rivista c'è anche un interessante articolo che parla di Frontex. Non ve lo sto a leggere perché è lunghissimo e anche molto tecnico, però è molto interessante, magari vediamo insomma se si può magari anche scansionarlo, perché non si trova Altra Economia non si trova online. Allora, praticamente Frontex, che è questa agenzia efferata che si occupa dei rimpatri in tutta Europa, cioè dall'Europa verso i paesi di origine dei migranti che vengono espulsi, ha la sua sede, guarda caso, a Varsavia, in Polonia. E la casa madre, diciamo, è a Varsavia. E praticamente ha già dei collegamenti a vari livelli, diciamo, con vari paesi anche extraeuropei. Allora, ad esempio, con Marocco, Mauritania, Senegal, Gambia, Niger, Nigeria, Ghana, Togo, Costa d'Avorio, per quanto riguarda l'Africa. E praticamente Frontex con il beneplacito dell'Unione Europea, anche se c'è una causa contro Frontex da parte di un'avvocata su questa faccenda qua, però lasciamo stare, comunque viene ignorata, diciamo, dall'Unione Europea, crea questi collegamenti per appunto portare il suo modello di difesa delle frontiere e di accordi bilaterali tra gli stati, insomma, a spese appunto del diritto di muoversi delle persone, e le porta già direttamente in questi paesi, insomma, dai quali spesso arrivano i migranti, e accordi ancora più diciamo stretti, precisi e programmati Frontex li ha con i paesi come la Bosnia-Erzegovina, l'Albania, il Montenegro, la Serbia, la Macedonia del Nord, il Kosovo, quindi Est Europa, e poi chiaramente Turchia, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Ucraina, Bielorussia e Russia. E vi leggo solo una cosa, dice un papavero, insomma un capoccione, diciamo, di Frontex, dice: l'obiettivo di combattere l'immigrazione irregolare si è trasformato nella gestione efficace dell'attraversamento dei confini, proprio come dicevano prima i compagni, per mettere a valore, in maniera proprio finanziarizzare, diciamo, i corpi delle persone migranti. E mi viene in mente un'altra cosa, il CPR di Torino, prima di essere distrutto con il fuoco, appunto, e sarà importante, e i compagni ce lo ricordano, che non riapra il CPR di Torino, e era gestito da questa multinazionale, la definisco, Ors Italia, che è, per dire, gestisce tutti i centri di detenzione dell'Austria, ad esempio, insomma, e un sacco altri, anche ne fanno parte anche dei politici, delle figure politiche dell'Austria, e gestisce, insomma, diversi non solo CPR, anche altre strutture di assembramento, perché non posso chiamarle strutture di accoglienza. E si tratta proprio di una multinazionale che ha dei finanziamenti sauditi, per dire, e spazia da questo campo della gestione, appunto, dei migranti, a quello anche delle armi nucleari, per dire, della pianificazione, insomma, degli scambi di armi nucleari attraverso i vari paesi del mondo. E per dire, insomma, questo chiudiamo qua su questo argomento specifico. We'll be right back. sono addormentati o storditi, le loro richieste diminuiscono. Così le persone trattenute nel centro di permanenza per il rimpatrio non mangiano, non fanno casino, vengono rimpatriate e non pretendono i propri diritti. E soprattutto l'ente gestore risparmia, perché gli psicofarmaci costano poco, il cibo e una persona attiva invece molto di più. Questo era un racconto virgolettato di un operatore, ex operatore, che ha lavorato diversi mesi in un CPR e che con questa, diciamo, sua testimonianza si apre questo articolo di cui accennavo prima, Rinchiusi e sedati, l'abuso quotidiano di psicofarmaci nei CPR italiani, una più che un articolo, un'inchiesta che hanno fatto questi due giornalisti, Luca Rondi e Lorenzo Figoni, per il periodico Altra Economia. Allora, dunque, io sono andata alla presentavano questo numero di Altra Economia, questa specifica inchiesta, lo scorso venerdì a Gorizia, e io sono andata a sentire, appunto, anche perché era impossibile trovare la rivista, quindi c'è stato modo in questa maniera anche di procurarla. E vabbè, questa indagine ha fatto proprio è molto specifica sul discorso degli psicofarmaci, e si è fatto proprio uno studio, diciamo, che dove ha potuto avere dati, dove hanno potuto i due giornalisti avere dati forniti dalla prefettura o dall'ASL o dall'ente gestore, hanno utilizzato questi dati, dove invece no, diciamo, si sono comunque basati sulle testimonianze, sulla cronaca anche dei vari centri per il rimpatrio. E per dire una cosa, che vabbè, l'inchiesta è interessante, ci sono un sacco di numeri, ma sono anche numeri importanti perché danno un po' l'idea di quello che succede. E per dirvi un numero significativo, praticamente la spesa in psicofarmaci del CPR di Milano è il 60% del totale della spesa del CPR, cioè della spesa per il cibo, per tutte le cose, quindi una roba mostruosa. E di questo 60% del totale, la metà sono spese per acquistare il Rivotril, che è appunto questo maledetto antiepilettico usato ampiamente come sedativo. E vabbè, insomma, sappiamo che poi nei CPR questi farmaci sono somministrati senza consenso, cioè vengono messi anche nel cibo, perciò insomma le persone non hanno neanche la possibilità di sapere che cosa assumono. E vabbè, l'articolo, anche questo, insomma, è interessante, bisognerebbe leggerlo. Io faccio una mia riflessione rispetto alla presentazione di questa inchiesta. La presentazione è avvenuta presso il centro di igiene mentale di Gorizia, quindi nel reparto quasi al confine, insomma, nell'ex ospedale psichiatrico praticamente di Gorizia, che adesso è centro di igiene mentale. E gli organizzatori erano proprio il centro di salute mentale del distretto Alto Isontino, e poi vabbè, non ho capito se come organizzatori o come partecipanti, insomma, c'era anche il Consorzio Italiano di Solidarietà, appunto l'ICS di Schiavone, per dire, di cui Schiavone è uno dei, che è stato nominato anche prima, è uno dei rappresentanti. E, sì, una cosa, diciamo, che a me, infatti sono andata anche per quello a sentire, perché una cosa che mi ha turbata è il fatto che un centro di igiene mentale, quindi una struttura super istituzionale, tra l'altro l'azienda sanitaria Alto Isontino non ha fornito i dati, e neanche la prefettura di Gorizia non hanno fornito i dati ai due giornalisti, in quanto hanno detto che non erano non sono in possesso di dati sulla psichiatrizzazione dei reclusi nei CPR. Comunque, la cosa che stride, cioè che a me ha turbato, è il fatto che delle istituzioni che dovrebbero, diciamo, avere il polso della situazione, comunque dovrebbero e sono a conoscenza, cioè potrebbero, ecco, essere a conoscenza di quello che succede lì dentro, invece come se fossero, diciamo, delle anime belle, sì, delle persone sensibili che hanno a cuore, ma che non hanno nessun ruolo istituzionale, appunto si mettono a organizzare una cosa di questo tipo in maniera un po' schizzoide, perdonatemi la parola. E difatti c'era questa la conduttrice, diciamo, dell'incontro è proprio la direttrice del centro di salute mentale, quindi una psichiatra, e colpiva, insomma, in tutto questo discorso, questa enfatizzare il fatto che diciamo il pubblico, cioè i medici psichiatri e comunque gli operatori psichiatrici in generale, ma i medici psichiatri in particolare, in quanto sono loro che possono fare le diagnosi, no? E quindi possono prescrivere o togliere dei farmaci, e hanno dichiarato in varie salse, insomma, di avere le mani legate, e perché loro dicono dal 2021 nessuno, il gestore del CPR, che poi è cambiato, e comunque non ci chiamano più a fare le visite psichiatriche, no? E quindi noi come facciamo a sapere, come sappiamo che queste persone soffrono, però come facciamo a sapere se queste persone hanno effettivamente delle problematiche psichiatriche e se invece no, insomma, e vabbè, roba un po'. Difatti Schiavone, che è avvocato e sì, giurista dell'ASGI, no, dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ha parlato dopo, insomma, e ascoltando le lamentele, diciamo, delle figure istituzionali, compresa anche la sindaca di Gradisca, ha detto: sì, ma veramente guardate che le figure istituzionali, se vogliono entrare, riescono ad entrare, devono, cioè lui ha detto letteralmente, una lotta per entrare si fa o non si fa, anche in un'ottica appunto istituzionale, cioè se un medico psichiatra del servizio pubblico o una figura degli enti locali vuole entrare, dovrà battere i pugni, insistere, non mollare, insistere fino ad arrivare a impugnare, diciamo, il diniego, ma deve entrare. Non è che, quindi non vale questo discorso di dire: oh, che opacità, l'ente gestore, la prefettura, no, noi non possiamo entrare. No, vale per una persona che non ha nessun ruolo, diciamo, istituzionale, perché ovviamente quelle lì sono istituzioni totali, ma non può valere per una figura istituzionale. Quindi è un paravento, diciamo, dietro il quale si nascondono. Quindi la cosa che a me disturba molto è questo, diciamo, utilizzare l'indignazione anche, no, per in qualche maniera nascondere la testa sotto la sabbia. E tra l'altro emergeva questa contraddizione, diciamo, nella, diciamo, facciata di quelli che organizzano queste cose e poi invece in quello che ci sta dietro. C'è stato un rappresentante, un esponente comitato. Era il comitato per praticamente verità e giustizia per Wissem Ben Abdel Latif, che è quel ragazzo di 26 anni tunisino che è morto in stato di contenzione in un ospedale di Roma nel 2021, novembre 2021. E appunto questa persona ha descritto tutta la vicenda di Wissem, e quindi il suo arrivo, il fatto che gli è stato fatto un certificato di sana e robusta costituzione, per cui era compatibile la sua condizione fisica e psichica con la detenzione dura, diciamo. Poi è stato messo in una nave quarantena in quanto era il 2021, quindi c'erano ancora le norme per il Covid, e poi praticamente è stato trasferito a Ponte Galeria e lì viene chiesta una perizia psichiatrica. La perizia psichiatrica viene fatta, quindi viene fatta da uno psichiatra, non da un medico generico o da che ne so, ma da un medico psichiatra, e gli vengono diagnosticati disturbi psichici, nello specifico una sindrome schizoaffettiva. Segue una pesantissima terapia farmacologica che insomma lo distrugge. In poche parole, finisce all'ospedale, però qui viene tenuto legato. È una roba veramente impressionante, perché viene tenuto legato 40 ore all'ospedale Grassi di Ostia e poi 63 ore al San Camillo di Roma, senza mai essere slegato, e viene alimentato solo una volta in 5 giorni. Praticamente sì, questa persona insomma muore in queste condizioni. Allora sono indagati per omicidio colposo due medici e due infermieri del reparto ospedaliero. Allora, questo racconto, a parte la crudezza insomma e la rabbia che fa venire veramente voglia di spaccare tutto, cioè di andare là e di spaccare tutto, ma tutto, di non lasciare nemmeno una briciola di quelle strutture, ma fa emergere il fatto della psichiatria, cioè che comunque la psichiatria ha un potere enorme sulla vita delle persone, quindi degli psichiatri non possono esimersi dal riconoscere questa roba e casomai prendano le distanze da un sistema di potere pseudoscientifico, tra l'altro, perché le diagnosi psichiatriche sono appunto delle costruzioni discorsive, non sono delle diagnosi. E invece questi qua si indignano, però non mettono in discussione la diagnosi psichiatrica, non mettono in discussione il fatto che succedano queste cose, ma non solo per le persone come Wissem Latif, ma anche pensiamo ai TSO, pensiamo ai reparti di diagnosi e cura, quello che succede continuamente, ma pensiamo alle carceri, no? Perché anche tutta la retorica i CPR sono peggio delle carceri, perché dentro le carceri c'è il sistema sanitario nazionale che interviene alla faccia del sistema sanitario nazionale che interviene all'interno delle carceri, cioè sappiamo benissimo, noi purtroppo lo sappiamo che sulla nostra pelle, nel senso che abbiamo dei processi per averlo fatto emergere, e sappiamo benissimo qual è la situazione, come vengono trattati dal punto di vista sanitario i detenuti nelle carceri. Spero di non aver fatto casino. Comunque, quello che mi premeva dire era questa cosa qua di questa schizofrenia, diciamo politica, di dei sinceri democratici che si indignano, ma che poi alla fine sono corresponsabili di quello che succede dentro le strutture, le istituzioni totali. E niente, quindi mi pare che siamo quasi agli sgoccioli. E ricordo l'appuntamento. Allora, domani l'opuscolo "I CPR si chiudono con il fuoco", curato e redatto dai compagni dell'Assemblea No CPR di Torino, verrà presentato in strada, in piazza, in Campo San Giacomo a Trieste, domani pomeriggio e tardo pomeriggio. E poi sabato, molto importante, verrà presentato nel contesto di un presidio solidale con i prigionieri del CPR di Gradisca, verrà presentato appunto a Gradisca di Sonzo, di fronte proprio al CPR. In coda, mi dispiace di dare poco spazio, però voglio dire anche questo fine settimana c'è un'altra iniziativa importante che si svolgerà nello spazio autogestito di Via De Rubeis a Udine, e cioè la presentazione di un libro, "Guerriglia Froccia", sulla George Jackson Brigade, che era un collettivo, un gruppo diciamo di lotta armatista, che ha agito dal 75 al 78 a Seattle, e si parlerà, questo libro è stato ritradotto, diciamo, cioè era una versione ma è stato ritradotto dalle edizioni Anarcho-Queer, e si parlerà non solo della George Jackson Brigade ma anche del collettivo gay anticarcerario Men Against Sexism, che è stato appunto, era stato fondato proprio da un membro della George Jackson Brigade. E niente, sì, no, scusa, non ho detto, appunto, questo libro verrà presentato domenica sera, dicevo, nello spazio autogestito di Via De Rubeis a Udine. Si inizia verso le 19:30, insomma ci sarà il solito momento conviviale di autofinanziamento iniziale, poi quando siamo tutti presenti iniziamo con questa importante presentazione. Bene, io per oggi vi saluto e alla prossima. Bene, sfumo un po' questo brano, che comunque sono tutti brani che abbiamo ascoltato in sottofondo durante gli interventi ultimi, ma anche a inizio trasmissione, ovvero questa artista di Pescara che si chiama Nana. E che dire, siamo giunti proprio al termine della trasmissione Cazzardins Magnetics, ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle ore 21:30 qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Vi ricordo i nostri contatti, se volete scriverci potete farlo tramite posta elettronica intestando la mail a liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea, Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34 121. Inoltre potete riascoltare questa trasmissione, ma anche tutte quelle avvenute nei giovedì scorsi, smanettando su in rete zardismagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardismagneticsradio.noblogs.org. Bene, altra cosa, salutiamo anche chiunque ci può ascoltare domani in replica dalle ore 17 sul web radio Radiazione, come detto, domani dalle 17. Bene, siamo al termine, forse abbiamo tempo per ascoltare un altro brano, che così anche presento questo brano perché l'abbiamo ascoltato uno prima dell'intervento ultimo. Loro sono di Bologna, gli Horror Vacui, band appunto dalle sonorità dark, come avete già ascoltato il loro album datato 2014, Return of the Empire. Che altro dire di questa band, che ha avuto un successo, diciamo, come dire, strepitoso anche fuori dall'Europa, e tutti i componenti di questa band sono praticamente, fanno parte di altri progetti punk hardcore crust a livello nazionale, sempre zona di Bologna ma anche extra. Comunque ciao a tutti, prossimo giovedì Horror Vacui.